Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. In Spagna, qualche anno fa, durante un viaggio, percorsi una strada abbastanza tortuosa dove erano posizionate le sagome a misura naturale di ex conducenti e passeggeri nei luoghi dove erano morti a seguito di incidenti stradali. Le sagome erano parecchie, alcune decine lungo tutto il percorso. Il numero delle sagome rispecchiava il numero dei defunti. Pertanto, se i morti erano una famiglia intera, c'erano le sagome di un uomo, una donna, un bambino. Devo dire che in quel momento mi misi a guidare con cautela. Stefano. Gentile direttore, apprendo con piacere che la provincia di Bolzano ha emanato un provvedimento punitivo nei confronti di chi viene ricoverato in ospedale per abuso di alcol. Concordo. 200 euro sarà il conto da pagare per gli accaniti bevitori. Giusto. Non c'è ragione valida per addebitare alla collettività il prezzo dei vizi altrui. Ho letto che addirittura il 10% dei ricoveri ospedalieri è dovuto all'abuso di alcolici. Circa la metà degli 8.000 morti per incidenti stradali è causata dalla mancanza di lucidità del conducente bevitore. Pensate che in Danimarca il 36% degli adolescenti ha dichiarato di prendere una sbronza 3 volte alla settimana. Se pensiamo che in tutto il paese i ricoveri sono migliaia, i 200 euro moltiplicati per il numero dei ricoveri abbatterebbe notevolmente il pesante debito che molte regioni hanno nella sanità. La mia opinione è che ora tutte le giunte della nazione dovrebbero prendere come esempio il provvedimento ideato a Bolzano. Molti dei nostri ragazzi hanno già tante cellule del loro cervello bruciacchiate dalla PlayStation o dalla stupidità. Poniamo dei limiti all'alcol ed evitiamo di paragonare la felicità a un happy hour. Marco. Caro Marco, anche a me sembra che la decisione della provincia di Bolzano sia non solo giustificabile, ma anche un esempio da seguire. Soprattutto perché è un richiamo alla responsabilità e quindi a dover rispondere degli effetti e dei costi sociali e collettivi delle proprie azioni. L'atteggiamento del buon padre di famiglia non deve essere quello di chi cerca sempre di rimediare agli errori e di coprire gli sbagli dei figli. E ancor più, le strutture pubbliche, se sono chiamate a intervenire e proteggere chi si trova in situazioni di difficoltà, devono comunque cercare di bloccare quei comportamenti che sono non solo a livello personale, ma anche socialmente pericolosi. Il fenomeno dell'alcolismo, così come dell'uso di droga tra i giovani, è purtroppo continuamente in crescita. È un fenomeno complesso che chiama in causa il ruolo e la responsabilità delle famiglie, i valori personali e sociali, il senso del limite e le tentazioni della trasgressione. Sono tanti i passi che andrebbero compiuti, ma comunque tutto quello che può richiamare alla responsabilità deve essere accolto positivamente. A proposito della vostra trasmissione su liberalizzazioni e concorrenza, vorrei farvi notare che non tutti i professionisti sono ricchi e benestanti avvocati e notai, settori dove esiste lo sfruttamento dei praticanti. La realtà che conosco io è fatta di piccoli studi e gente onesta e seria, che lavora per 7 giorni alla settimana senza orari, malattia o altre protezioni. Esistono molte professioni, come quelle legate all'edilizia, architetti, geometri e ingegneri, le cui tariffe sono di fatto liberalizzate da tempo. Infine, io sono favorevole alla liberalizzazione delle tariffe, una situazione che ormai vivo da tempo, ma in cambio esigo un sistema di recupero crediti serio e funzionante. In Italia è troppo facile non pagare i professionisti e farla franca. Ho amici che sono andati gambe all'aria per parcelle non pagate, spesso da grandi aziende o piccole aziende che falliscono e chiudono. E tu resti con le pive nel sacco. Gianluca. Scrivo a proposito del decreto sulle intercettazioni e sulle proteste per i presunti limiti alla libertà di informazione. I giornalisti chiamano libertà di informazione scrivere se Pinco Pallino, quando va in bagno, la fa in piedi o da seduto. Io, quando sfoglio i giornali seri, ho l'impressione di leggere gli articoli che una volta venivano relegati a Stop e Cronaca Vera. Se i giornalisti chiamano libertà pubblicare l'intercettazione dove Moggi definisce stupidotto Bettega, o l'intercettazione dove l'imprenditore gioisce per i suoi interessi personali per il terremoto, atti sicuramente moralmente riprovevoli, ma voglio vedere chi, manifestando privatamente le proprie idee su qualsiasi argomento, sarebbe così puro da poter scagliare la prima pietra. Bene. Io di questa libertà di informazione ne faccio sicuramente a meno. E ben vengano gli spazi bianchi per protesta, così finalmente leggerò un giornale di informazione e non il resoconto di quanto viene visto dal buco della serratura. Gli amanti della Costituzione, la nuova Bibbia, sappiano che la libertà di un soggetto finisce nel momento in cui potrebbe ledere la libertà altrui. Fatima. Sono una vostra assidua ascoltatrice, ma alcune mattine fa sono rimasta amareggiata per un vostro servizio. Si parlava di donne che, non volendo rinunciare alla loro bellezza nonostante la crisi, si rivolgevano ad un centro di bellezza cinese, dove taglio, shampoo e messa in piega costavano solo 8 euro. La vostra redattrice si mostrava piuttosto soddisfatta e concludeva dicendo che quel salone aveva guadagnato una nuova cliente. Peccato che la ragazza che l'aveva servita non avesse un contratto di lavoro e lavorasse 7 giorni su 7 per 13 ore giornaliere. Io la chiamerei schiavitù. Mi dispiace, ma ritengo che questo sfruttamento della manodopera debba essere condannato e non pubblicizzato. Alessandra. Guardando la bolletta dell'Enel, ho notato che c'è un addizionale comunale e che anche su questa tassa viene calcolata l'IVA. Mi chiedo, ma siamo un paese normale? Paghiamo l'IVA sulle imposte. Il Medioevo è anche questo. Vessazioni a non finire. È noto che in Italia il numero di persone che vivono di politica è il più elevato al mondo e che paghiamo i politici il doppio degli stati più ricchi e 10 volte di altri stati europei. Si dice anche che i politici facciano avere l'invalidità ad uno dei loro figli. Così quando muoiono al figlio resta la reversibilità della loro altissima pensione. La situazione dei giovani è disperata. Laureati che mendicano lavori pagati da 300 a 500 euro al mese e i politici che si abbuffano senza ritegno. Se avessi la possibilità scapperei dall'Italia. Non mi piace più vivere in questo paese. Scusate lo sfogo, Piero. Cara Radio 24, una vecchia edizione anno 1907 di quello storico dizionario enciclopedico che si chiamava Il Nuovissimo Melzi riporta in appendice l'elenco nominativo dei 1089 partecipanti alla cosiddetta Spedizione dei Mille. Dal medesimo appare anche la loro cittadinanza, che risultava essere, per la stragrande maggioranza, originaria del nord Italia. Il capo della spedizione era un marinaio nato a Nizza, ma di famiglia di ceppo ligure. Ora, che i leghisti nostrani abbiano motivi di scontento per come funzionino le cose nel nostro paese, nulla da dire. Ma il fatto che non perdano mai l'occasione per esprimere sprezzo e disgusto per la loro appartenenza all'Italia credo vada al loro discredito. Dopotutto, da dove e da chi ha avuto origine la formazione di quell'entità chiamata Italia? Proprio da quei territori oggi chiamati Padania e dai loro bisnonni che in quei siti settentrionali vivevano. Angelo da Genova. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.